con la regista Pepi Romagnoli per parlare del suo documentario Una gloriosa delegazione a Pyongyang, che sarà al Sudestival a Monopoli sabato 16 febbraio 2019. Pepi, ben trovata. Grazie, sì, sono Pepi Romagnoli e sono pronta a rispondere alle vostre domande. Allora, intanto descriviamolo questo documentario, di cosa si parla? Dunque, il documentario, che è un film documentario in realtà perché è costruito come un film, racconta la storia di quattro persone che vengono da quattro parti diverse del mondo. Uno è russo, una è venezuelana, uno è milanese e l'altro è sardo, che si incontrano e decidono di partire per la Corea del Nord, perché tutto il mondo dice male della Corea del Nord e siccome l'amico russo sostiene invece che è il posto perfetto per una luna di miele, cominciano a indagare sulla Corea del Nord e decidono di partire. Naturalmente questo essendo un documentario racconta tutto quello che è successo veramente. Noi siamo partiti con l'ambasciata della Svizzera con sede a Berna, dell'ambasciata della Corea del Nord in Svizzera, e all'ultimo momento non volevano lasciarci i pass per partire perché c'era stato un accordo che non avevano capito. Quindi diciamo che tutto il documentario racconta quello che succede in tempo reale e lo racconta in modo il più possibile cinematografico. Ecco. Loro arrivano in Corea del Nord e si scambiano delle opinioni su ciò che vedono. E ciò che vedono non è una roba orrenda come quella che ci raccontano qui in Occidente, ma è un paese meraviglioso, è un paese che vive una dimensione abbastanza astratta dal resto del mondo, però per questo è interessante. E diciamo che quindi passano 3 giorni molto, molto piacevoli, alla fine dei quali ripartono da Pechino e a questo punto c'è un contrasto tra il ragazzo russo, che sostiene assolutamente i coreani del nord, anche perché i russi hanno molto aiutato i coreani del nord, e il ragazzo invece è milanese, che è uno scrittore e che ha scritto un film, un libro su Karl Marx e sull'eredità del pensiero di Karl Marx, e che sostiene che questa eredità sta in Cina. Quindi c'è un contrasto tra Ivan, ragazzo russo, e Davide, lo scrittore italiano. E allora decidono di andare per Pechino il giorno, primo di maggio, a chiedere ai cinesi se si sentono socialisti e se conoscono Karl Marx e cosa pensano di Karl Marx. E il film finisce così. Com'era nato tutto? Allora, tutto nasce da una chiacchierata simpatica che io faccio con Ivan, col ragazzo russo, in quanto io avevo un progetto sugli apolidi e rifiutandomi di far recitare la parte di un apolide a un italiano, che secondo me non c'entrava un po' come si chiamerebbe, ho coinvolto questo ragazzo russo e l'ho conosciuto. Lui, da quando all'età di 16 anni, sta in Italia e ha vissuto in modo piuttosto traumatico il passaggio dal crollo dell'Unione Sovietica, alla civiltà occidentale. Si è trovato spiazzato, da alcune cose e ancora oggi lui, tra virgolette, soffre della mancanza di alcuni, diciamo, valori che lui aveva avuto in infanzia, tanto che quando parliamo della Corea del Nord, lui mi dice che è il posto della terra dove lui vorrebbe andare, appunto quello che poi ho traslato anche nel film, è che lui ha questa profonda nostalgia proprio dell'Unione Sovietica e che ritrova in Corea del Nord questo suo desiderio di infanzia, diciamo, di quei valori che lui ha ricevuto in infanzia. Quindi quando lui mi dice: Pepi, per me il posto più bello dove io potrei andare è la Corea del Nord. Io sinceramente conoscevo molto poco della Corea del Nord, cioè tutto quello che noi normalmente sappiamo, cioè che Kim Jong-un manda i missili, che si scatena la guerra nucleare, che la Corea del Nord è un paese terrificante dove nessuno può fare niente, dove ci sono, che sono, purtroppo sono anche cose vere, non è che non sono cose vere, però c'è anche la gente normale che vive normalmente là. E tutto sommato la mia sensazione è stata quella di entrare in un paese normale. Sono andata a questa biblioteca nazionale, che per dire, allora io sono di Milano, ecco, il Duomo di Milano, a Pyongyang è rappresentato dalla Biblioteca Nazionale, quindi è un posto dove vanno tutti a studiare, dove si incontrano, un posto di ritrovo, diciamo, delle persone. E lì il mio amico russo ricomincia a parlare russo, ma è successo veramente, ecco. Quindi diciamo che l'intenzione dietro tutto questo è dimostrare che ci sono parecchie realtà delle cose, no? E che dipende molto dalla prospettiva in cui uno le vede. Io tengo a dire che non mi sono mai occupata di politica e anzi sono una politica proprio di natura. E quindi tutto questo è nato dalla curiosità di capire un posto che veniva tanto denigrato. Ecco, forse io ho abbastanza passione per comprendere ciò che non viene compreso, no? E quindi cercare di indagare un po' a fondo per capire il perché alcune realtà sono così emarginate, e perciò in fondo tutto questo lavoro nasce da questo. Avrà una forma distributiva? È molto difficile vendere questo film. Però io posso forse dire che Franco Zuliani delle Officine Ubu ha già spedito questo film in Rai e a Sky e che dovremo presto firmare un contrattino di distribuzione, perché naturalmente se il film andrà in televisione così, io ci tengo che esca anche al cinema e quindi sarà condizio sine qua non. Ecco. Per saperne di più, ci lasci dei riferimenti internet? Ti lascio il mio sito internet che è www.michelangelofilm.it. E qui c'è un po' tutto quello che io ho fatto e naturalmente tra i primi progetti c'è una gloriosa delegazione a Pyongyang. Bene. Ah, tengo a dire che Michelangelo Fime perché mio marito si chiama Michelangelo, non perché io abbia delle idee abbastanza. E allora ricordiamo il docufilm Una gloriosa delegazione a Pyongyang al Sudestival a Monopoli, sabato 16 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Pepi Romagnoli. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico e buona giornata a tutti.